Incamperà Montasegur. Maledetto, strillò Alan, io ti ammazzo. Ti faccio a pezzi. Io ti anniento. Alan strillava e batteva i pugni sul tavolo, rabbioso. Si trovava in caserma, continuava il suo lavoro per la Polizia Nazionale per il Ministero degli Interni immerso nel dark web. Ha contattato un sicario per sfigurare la moglie con l'acido, continuava a strillare. Le sue urla fecero allarmare i colleghi tanto che arrivarono i superiori per capire cosa stesse accadendo. Trovarono Alan fuori di sé. Calmati Alan, disse un suo collega. Cosa sta succedendo? Cos'è questa confusione? Accorse l'ufficiale. Alan è stanco, rispose uno dei colleghi di Alan. Non sono stanco, sono furioso, strillò Alan. Guarda qua, vuole bruciare il viso della moglie con l'acido. Guarda quest'altro, ha seviziato la fidanzata, le ha tagliato le mani e l'ha legata ad un albero. Quest'altro rapisce i bambini e guarda che fa, li USA per stupri di gruppo con i suoi compari nella cantina, li filma e rivende i video. E questo? L'ha chiuso in un sacco di plastica, l'ha appeso al soffitto e l'ha lasciato penzolare sopra un falò. Stai calmo, disse un altro collega prendendogli le spalle tra le mani. Alan, intervenne l'ufficiale, lavori troppo, troppe ore, da troppo tempo. Devi staccare, trovati un hobby, creati una famiglia, creati una vita fuori da questo. Ma quale famiglia? Urlò Alan, io non la voglio alimentare questa vita. Io la voglio distruggere. La stanza si riempì di gente tutta preoccupata per Alan, che continuava ad elencare in velocità una raffica di orrori su orrori mostrando immagini e video come una turbina impazzita. Questa è stata uccisa a morsi. A morsi vi rendete conto? Bambine sue coetanee sono state costrette a ucciderla a morsi. Non potevano mica rifiutare, lo sapevano che sarebbe potuta accadere la stessa cosa anche a loro. Questo poi. Guardate questo, fece partire un altro video, questo batte tutti. Guarda qua, per bruciare un bosco ha dato fuoco al suo cane che si è messo a correre. Alan basta. Basta, urlò spazientito l'ufficiale schiaffeggiandolo pesantemente. Alan si zittì. L'ufficiale assicuratosi che Alan si fosse calmato lo invitò a seguirlo nel suo ufficio. Alan, gli disse, siamo tutti molto contenti di te, hai fatto un lavoro egregio, sei il migliore, ma adesso basta, stai male. Ti serve una pausa. Alan scuoteva la testa mantenendo lo sguardo basso. Alan stai male, insistette l'ufficiale, prenditi una pausa, esci, vivi la tua vita, fai una vacanza. A malincuore Alan dovette accettare di essere esonerato causa burnout ovvero stress da lavoro, vero e proprio esaurimento nervoso. Era circa mezzogiorno quando Alan uscì dalla caserma, la luce del sole gli sembrò più accecante che mai, i colori gli sembrarono più accesi del solito, il traffico, il vociare nelle strade gli erano insopportabili, in quel momento si rese conto che stava male davvero. Prese a camminare, camminò tantissimo, senza una meta, poi pensò a girare e decise di andare a trovarlo in palestra. Gli raccontò l'accaduto, era mortificato, si sentiva un fallito. Gerard lo ascoltò con apprensione e poi gli venne un'idea. Domani andiamo a prendere André, finisce un lavoro che ha trovato a Montasegur, così torniamo a Parigi insieme, disse, ti passo a prendere con il camper per le 6.00 e andiamo. Fatti trovare pronto. Alan annuì. Era davvero sottosopra, ma l'idea di Gerard gli piacque. L'indomani alle 6.00 puntualmente si fece trovare pronto. E alle 6.00 puntualmente Gerard arrivò con il suo camper. Puntualmente giunsero a Montasegur dopo 8 ore di viaggio. Videro subito André che in quei giorni lavorava come elettricista in un cottage adibito ad albergo nel villaggio nei pressi del castello. Anche se stanchi per il viaggio si prestarono ad aiutare il loro amico nel suo lavoro. Dovevano finire il nuovo impianto elettrico di tutto il cottage. Lavorarono fino a sera, fino all'ora di cena. Cena che fu un piccolo banchetto, ancoiade, aligot detto anche il purè dell'amicizia, garbure, ma per André assolutamente senza carne. Pissaladie, cassole che André saltò a pie pari preferendo invece un antico piatto medievale del luogo, una sorta di pasticcio di pesce e pane, piacque solo a lui, coquille Saint-Jacques, la spettacolare gateula a broche, la torta allo spiedo, pelardon ma anche la millas... e poi il vino, dimenticavo il vino... e i vini... Coteaux du Languedoc, Faugheres, Clairette du Languedoc, la Blanquette del Limoux... poi bo... non me li ricordo più. Stanchi decisero di andare a dormire piuttosto presto, il proprietario del cottage offrì 2 camere a Gerard e Alan. Per Alan, che arrivava da giorni non facili, il sonno arrivò immediatamente, ma per Arno, lui non era per niente assonnato, si sdraiò momentaneamente sul letto, fissando il soffitto, poi si alzò e decise di fare due passi. Si incamminò per le vie del paese da solo. Certo, per chi è abituato a vivere in una grande città, Montsegur non offre che poche viuzze e poche case, ma senz'altro il silenzio in cui Gerard si trovò immerso a Parigi di sicuro non c'era. Camminava così, per perdere tempo, senza pensieri, una passeggiata senza scopo. Ogni tanto alzava lo sguardo verso il castello che torreggiava sulla cima rocciosa, resti solenni che agli occhi di Gerard parevano un re ferito, ferito, ma non sconfitto. «Turista?» chiese un signore anziano che si affiancò a lui. «No», rispose Gerard sorpreso, «sono venuto a trovare un mio amico che sta lavorando». «André?» «Sì», rispose stupito. «Qui siamo pochi, se arriva qualcuno da fuori ce ne accorgiamo subito», sorrise il signore, «molto piacere Louis Germain», disse porgendo la mano a Gerard. Si strinsero la mano, subito Louis tornò alla sua postura iniziale, spalle un po' curve e mani incrociate dietro la schiena, come mani questa passeggiata notturna. Qui oltre la visita al castello e un po' di escursioni non c'è molto altro da fare. Non ho sonno. Io invece ho litigato con mia moglie, disse Louis facendo l'occhiolino a Gerard. Quando attacca a strillare io prendo esco di casa e faccio un bel giro, il tempo di farla sbollire, poi ritorno. E quando torna non la trova ancora più furiosa? No, la trovo offesa, meglio così, perché quando si offende non mi parla per tre anche cinque giorni di fila ... che pacchia. In quei giorni se ne sta zitta e posso stare in pace. Anche io con la mia fidanzata non vado tanto d'accordo, ridacchiò Gerard. Le capisci le donne tu? Non sono mai contente di niente, continuò Louis. Qualunque cosa fai è sbagliata, loro fanno sempre tutto meglio. Allora facessero tutto loro, e poi si lamentano che tu non fai niente e che fanno tutto loro. Louis, esclamò un signore affacciato alla finestra. Ciao Vincent, salutò Louis fermandosi sotto la finestra del suo amico. Nuova azzuffata con tua moglie? Chiese Vincent ironico. Più invecchia, più peggiora, rispose Louis, quando era giovane, continuò rivolgendosi a Gerard, era così carina, dolce. A quelle parole Vincent annuì, parlava poco, era gentile. Sembrava una bambolina, si inserì Vincent, ben vestita, ben pettinata. Poi, continuò Louis, ha cominciato a brontolare per qualsiasi cosa, continuamente, una pila di fagioli. Più passano gli anni e più brontola. Da quando sono in pensione si è scatenata, sembra che gli do fastidio. Sempre arcigna. Sempre arrabbiata. A me non piace litigare, allora quando comincia a strillare prendo e me ne vado, che strillasse al muro. Vincent raggiunse Louis e Gerard. Continuarono a passeggiare. Torni a cantare nel coro? Chiese Vincent a Louis. Sì. André canta bene, intervenne Gerard. Organizziamo anche spettacoli in strada. Chi l'elettricista di Parigi? Chiese Vincent. Sì, l'elettricista di Parigi, ridacchiò Gerard. L'avete mai cantata l'Oboyer? Gli chiese Vincent. No, rispose Gerard piuttosto interdetto. Non conosci l'Oboyer? Domandò Loyos. No. È una vecchia canzone di queste parti, parla di un bovaro che torna dai campi e trova la moglie in punto di morte e che gli detta le istruzioni per la sua sepoltura e poi sale in paradiso con le sue capre. Che storia triste, disse Gerard. Gliela facciamo sentire? Chiese Vincent a Louis. Sì, rispose Louis, tu, rivolgendosi a Gerard concluse, quando senti che noi diciamo A, E, I, O, U canta insieme a noi. Alla fine Gerard tornò in stanza tardissimo, la mattina dopo tardissimo si svegliò. Trovando André e Alan nel salotto del cottage seduti sul divano che lo aspettavano. Ma come hai fatto a fare così tardi? Chiese Alan. Le tentacolari notti di Montsegur, rise André. Gerard raccontò come aveva trascorso la notte. Alan e André lo presero in giro per tutta la durata del viaggio di ritorno verso Parigi,